9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, un vibrante inizio di fine settimana che ci conferma nei nostri doors, visto che gli spread sono già a quota 400, perché ovviamente con questo bel risultato del primo turno francese, un risultato strano perché qui a esultare sono quasi i politici più di destra in Italia che i giornali di destra, che quelli di sinistra, che ovviamente esultano perché in testa al primo turno c'è il socialista Hollande, però da noi è una gara tutti a dire ma sì, un bello schiaffo a questi tedeschi cattivoni, come se tutto questo non significasse spread che salgono, e mentre un governo, quello italiano, che era convinto fino a poche settimane fa di aver fatto tutti i suoi compiti a casa, adesso deve dire c'è molto da fare in più. Vi segnalo che se volete capire come i tedeschi per esempio considerino questo risultato del primo turno francese, in cui se sommate i voti di Marine Le Pen e i voti di Mélenchon avete un terzo dell'elettorato francese assolutamente antisistema, per essere chiari, e poi c'è il candidato in vantaggio che ha detto che vuole riscrivere le leggi del patto europeo, a cominciare dall'intesa 2 con la Germania, potreste per esempio trovare sulla Frankfurter Allgemeine Zeitung il commento dell'editor politico Günther Nonnemacher, che dice è un scenario politico, quello che ci offre il voto al primo turno francese, seriamente preoccupante, e si capisce che Günther si trattiene nel dire seriamente preoccupante. Invece se andate su Financial Times Deutschland trovate il commissario Olli Rehn, europeo, che indirettamente si rivolge agli elettori francesi dicendo pensateci bene al secondo turno. Naturalmente immagino che tutti voi che a casa siete contrari all'euroconvergenza fatta di soli di rigore stiate dicendo Olli Rehn tra voi e voi, ma fate un po' i fatti tuoi. Nel frattempo, come vi dicevo da settimane e settimane, è saltato il governo in Olanda, perché la destra nazionalista di Geert Wilders ha detto no al pacchetto di rigore per 16 miliardi di euro per scendere nei limiti di deficit della fino a ieri eurovirtuosa Olanda, che adesso lascia la Germania da sola anch'essa, perché questo significherebbe elezioni anticipate in Olanda. Mi fermo molto presto a questi commenti, perché è ovvio che si ricomincia a ballare. Nel frattempo ho visto nel fine settimana molti commenti ispirati alla situazione spagnola delle banche, il cui titolo sui giornali americani era it's not whether if but when, cioè non si tratta più di chiedersi se la Spagna andrà a un esito greco, ma semplicemente quando, cioè avrà bisogno di nuovi aiuti concordati. Naturalmente i politici spagnoli dicono il contrario, ma anche quelli italiani, come avete visto in questo fine settimana, abbiamo appreso che le tasse in più che paghiamo tra il 2011 e il 2014 sono la bellezza di 87 miliardi di euro. Siamo l'unico paese europeo in cui 4 quinti le manovre di rientro si fanno con più tasse. E Giarda, che aveva avuto, Piero Giarda, l'incarico di una spending review in splendida solitudine, stanco degli attacchi che gli vengono dal governo stesso perché questa spending review non produce risultati, e ieri ha fatto sapere di aver chiesto a Monti una task force, come dire è già troppo comodo, me l'avevate chiesto da solo, invece dobbiamo metterci in compagnia. Questo è un po' il quadro della giornata, per questo Dors a tutta birra, mi pare di capire. Ma di cosa parliamo oggi? Noi parliamo nel proseguo della trasmissione, continueremo a dar voce alle centinaia e centinaia e centinaia di lettere che ci riceviamo, purtroppo per noi, con molto più successo di quanto immaginassimo, nel sondare l'insuccesso del paese, le lettere che ci arrivano al sito disperatimai@radio24.it. Quindi continueremo a dare voce alla protesta, alla disperazione di molti piccoli imprenditori che non ce la fanno per le banche, per le tasse, perché altri clienti non pagano. Ma prima di questo ve lo avevo detto, lasciandovi con un po' di acquolina in bocca, noi dobbiamo affrontare un punto, cioè dobbiamo spiegarvi, come recita il titolo del libro di Guanda appena uscito venerdì scorso, dobbiamo spiegarvi perché pagare le tangenti è razionale ed è tutto logico, pagare le tangenti è razionale, dice il titolo, ma non vi conviene. Questo è il titolo del libro che ha scritto, chi l'ha scritto? L'ha scritto una delle persone di cui ho massima stima da qualche anno a questa parte, da quando l'ho scoperto e ho iniziato a leggerlo, si chiama Armando Massarenti. Sì, è vero, si occupa anche del supplemento culturale che ogni domenica trovate allegato al Sole, però oltre a questo, quindi avere idee come quello il Manifesto per la Cultura, che ha avuto un successo molto forte in tutte queste ultime settimane, con migliaia e migliaia di firme autorevoli, eccetera, eccetera. In realtà scrive, non so come faccia, un mucchio di roba. Perché, per esempio, io sto finendo di scirupparmi l'ultimo dei quattro volumi del suo manuale di storia della filosofia, che si intitola Filosofia, sapere di non sapere. Questo è edito invece dalla casa editrice Danna, e vi posso garantire che non riprendevo con altrettanto gusto un manuale di filosofia in mano da quando odiavo il mio al liceo Alfieri, perché era impregnato di criteri marxisteggianti. E questo libro invece è strepitoso, questo manuale, perché me l'ho fatto riprendere, sono quattro volumazzi abbastanza tomosi, abbastanza spessi, però il criterio con cui è fatto, alternando brani, domande, degli esperimenti mentali, del pensiero laterale in note, è veramente tale che non avevo mai letto un manuale di storia della filosofia così appassionante come questo. Ve lo ripeto, quello si chiama Filosofia, sapere di non sapere, ed è la casa editrice è Danna. Ma l'ultima operetta morale, perché di etica morale si tratta, di Armando Massarenti, che qui in studio, riguarda invece questo bell'interrogativo: pagare le tangenti, e questo vale per non pagare le tasse, vale per tutti gli atteggiamenti, diciamo, che si tirano indietro rispetto a regole civili eticamente fondate, secondo una superiore morale che è quella appunto dell'etica, ma in realtà razionalmente analizzato, pagare le tangenti conviene, sì, è razionale. E però contemporaneamente non conviene pagare. Questo è il primo saggio di questo libro, che ne comprende poi altri due, e naturalmente, come potete immaginare, il secondo mi ha entusiasmato, perché è dedicato a David Friedman, uno dei più strepitosi pensatori dell'individualismo metodologico applicato in chiave liberista degli ultimi decenni, per essere chiari. E poi c'è una terza parte, questa molto più politicamente corretta, quindi Armando è una persona che sa equilibrarsi, che è dedicata invece ai saggi sul laicismo di Amartya Sen. Amartya Sen è un nome tutelare di coloro che dopo la teoria della giustizia di John Rawls sono convinti di aver trovato in Amartya Sen un pensatore che equilibra insieme i temi della scarsità, che sono i temi della nostra epoca, coniugati su quelli della giustizia, dove l'eguaglianza diventa non la vecchia antitesi di Isaiah Berlin tra libertà di e libertà da, ma diventa invece una condizione che si può misurare a seconda degli empowerment, cioè delle capacità di poter fare delle cose nella vita. Quindi c'è questa terza parte del saggio che è più politicamente corretto, una seconda che invece entusiasma quelli come me, perché questa seconda parte, quella su David Friedman, si leggono pagine come queste, e poi io mi taccio perché andiamo invece all'interrogativo sulle tangenti, si leggono pagine come queste. Allora, leggete, questa è una citazione da Alexander Spooner, che nella Costituzione senza autorità scriveva: è vero che secondo la teoria della nostra Costituzione tutte le tasse vengono pagate volontariamente e che il nostro Stato è una compagnia di mutua assicurazione alla quale le persone aderiscono volontariamente, ma questa teoria del nostro sistema di governo è del tutto differente da quel che si verifica in pratica. Il fatto è che lo Stato, come un bandito di strada, intima alle persone o la borsa o la vita. E molte se non tutte le tasse vengono pagate sotto il peso di questa minaccia. Lo Stato in effetti non tende un agguato a un uomo in un luogo solitario, balzandolo al ciglio della strada per puntargli la pistola alla tempia e svuotargli le tasche, ma non per questo la rapina cessa di essere una rapina a tutti gli effetti, anzi è ben più codarda e vergognosa, perché il bandito di strada assume su di sé tutta la responsabilità, il pericolo e la criminalità del suo atto. Il bandito non pretende di avere un giusto titolo al vostro denaro, né di volerlo usare a vostro beneficio, non pretende di essere altro che un onesto, disonesto rapinatore. Non è tanto impudente il bandito da affermare di essere semplicemente un protettore e di prendere il denaro dei passanti contro la loro volontà, solo per essere in grado di proteggere quei viaggiatori che si illudono di essere perfettamente capaci di difendersi da soli o che non apprezzano il suo peculiare sistema di protezione. Il bandito è un uomo troppo ragionevole per fare affermazioni del genere. Per di più, una volta che vi ha sottratto il denaro, egli vi abbandona. Il bandito non continua a seguirvi lungo la strada, contro la vostra volontà, sostenendo di essere il vostro legittimo sovrano in virtù della protezione che vi accorda. Non continua a proteggervi, ordinandovi di spiegarvi ai suoi valori e di servirlo, esigendo che facciate questo e proibendovi di fare quello, sottraendovi tutte le volte altro denaro, tutte le volte che ritiene che ciò sia nel suo interesse oppure quando ne ha voglia, ma naturalmente spacciandovi che è nel vostro interesse. Ecco questa meravigliosa pagina, e che come vedete mi dà dei precedenti intellettuali per sostenere che lo Stato è come un ladro. No, lo Stato è peggio di un ladro, l'ho trovata nel secondo capitolo di questo libro. Ma parliamo del primo, e qui cedo la parola ad Armando Massarenti. Come e perché il filosofo morale Massarenti, l'autore di questi bellissimi manuali che nelle mani dei giovani spero li appassionino al pensiero filosofico, ritiene di poter dimostrare teoria dei giochi alla mano, attenzione, che pagare le tangenti in un paese come l'Italia è razionale, eppure ciò malgrado non ci conviene. Armando, a te la parola. Beh, intanto grazie per questa presentazione. Il libro ovviamente ha un titolo che può sembrare paradossale, ma non lo è affatto, perché in effetti la teoria dei giochi ci dimostra che se non siamo dei moralisti, se non partiamo da una posizione moralista, noi semplicemente osservando i comportamenti degli individui ci rendiamo conto che spesso si trovano costretti a fare cose che magari non convengono. Cioè, in altre parole, per un imprenditore italiano, rispetto alla porosità dello Stato, dire se non le pago io le tangenti, io ho un danno perché tanti altri lo faranno. Tanti e altri fregheranno. Lo faranno, esatto. E nascono la teoria dei giochi fa questo, ha scoperto che, tra l'altro in linea proprio con quelle teorie che piacciono tanto a te e anche a me, perché a me piace moltissimo tutto l'arco della filosofia, delle teorie economiche che si intrecciano con la filosofia politica, e sono quelli della scuola austriaca. Cioè, non a caso, uno dei due creatori, Morgenstern, veniva proprio dalla scuola austriaca, e anche se gli sviluppi sono successivi, questi sviluppi che mostrano come la società non è costruita, cioè non c'è un costruttore, non c'è lo Stato che costruisce tutta una serie di apparati, di istituzioni, di norme, c'è anche quello, per carità, però molto spesso questo è abbastanza negativo. Ma torniamo invece a quelle altre norme che nascono spontaneamente, cioè si è capito che gli individui interagendo in certe situazioni, se poi quelle situazioni sono create ad hoc perché nascano degli equilibri sballati come è quello della corruzione, a quel punto il danno avviene per tutti. Ci possono essere altre norme invece virtuosissime, per esempio una scoperta meravigliosa del secolo scorso riguarda proprio la teoria dei giochi ed è il dilemma del prigioniero. Il dilemma del prigioniero che sembra essere una situazione, un impasse totale se il gioco viene fatto una volta sola, cioè quindi se non ne nasce poi una norma. La teoria dei giochi, aspetta, ti interrompo solo per ricordare a chi è nascosto, la teoria dei giochi, il libro, diciamo così, di riferimento, perché sì, introduce nell'economia questo studio delle interrelazioni tra scelte individuali, attori individuali, quindi il metodo è quello dell'individualismo metodologico, però poi le formalità con un apparato matematico che insomma è anche di una certa complessità, e fa capire come le scelte individuali, quando si è in più a doverle scegliere, in mercato si sei addirittura milioni, ma quando classicamente c'è un negozio giuridico che ha o due o più interlocutori, vengono condizionati da tutta una serie di fattori, si formalizza tutto matematicamente. Guardate che questa cosa, che nasce nel 1944 più o meno con un grande libro di John von Neumann, diventa poi uno dei criteri attraverso i quali si interpreta interpretano tutte le possibilità di interazioni tra attori. Questo sviluppo poi di cui stava parlando adesso Armando, che è successivo dagli anni 50 e così via, è diventato uno dei criteri attraverso i quali è possibile, per esempio, abbiamo avuto la conferma di come alcune cose, come il teorema dell'impossibilità di Arrow, quello che dice che fare una scelta davvero razionale tra attori collettivi, se dobbiamo farli votare, è pressoché impossibile, date una serie di alcune condizioni. Tutto questo poi, e ho finito l'inciso, negli ultimi 10-15 anni è diventato ancora più potentemente criterio interpretativo di che cosa può essere un mercato con informazioni simmetriche o asimmetriche, cioè più o meno lontano da essere accettabile, grazie a un'ulteriore branca dell'economia, che è la neuroeconomia, che ci fa capire come in queste scelte, poi quelle formalizzate dai giochi collettivi, ci facciamo guidare poi anche dalla parte in realtà meno razionale devoluta dal nostro cervello rispetto all'utente, l'attore, che invece presumiamo, abbiamo presunto essere perfettamente razionale, cioè alla ricerca sempre il suo miglior utile. In tutto questo, quindi, beh, nel mio esercizio però gli agenti sono razionali, cioè agiscono secondo il proprio interesse. Però in una situazione, tu poi hai buttato lì dei nomi così, von Neumann, no? È uno dei grandi geni del Novecento, non per le cose economiche, ma per i computer, per tutta una serie di sue invenzioni. Cioè, dei grandi geni del Novecento hanno capito questa cosa qui, che è una delle scoperte fondamentali delle scienze sociali, perché spiega anche più cose dei meccanismi di mercato, cioè spiega appunto le interazioni tra individui, cioè il fatto che io quando agisco devo tenere conto di quello che fa, di ciò che fanno anche gli altri, cosa che non sempre nel mercato avviene, cioè semplicemente una somma di scelte individuali che poi vengono insomma raggruppate in vari modi, no? Qui invece io infatti parto da una vignetta di Lupo Alberto, cioè Lupo Alberto che sta per sfuggire al cagnastro nelle loro lotte di cortile e fa questo astutissimo ragionamento, dice: ma se io mi nascondo sempre nello stesso cespuglio, forse lui penserà che io non sono così scemo da mettermi sempre nello stesso, io in realtà sono molto furbo, si mette nello stesso cespuglio e viene acciuffato classicamente. Ecco, quindi sono questi giochi razionali che poi alla fine convengono poco, se vogliamo accettare questa metafora, no? Convengono poco perché poi ripetendo quel gioco della corruzione in cui tutti quanti pensano che comunque si trovano costretti e nasce una norma implicita del tutto spontanea, mentre potrebbero nascerne altre, e prima stavo facendo appunto il ragionamento di una invece virtuosa, cioè se gli individui cooperassero come avviene in altri giochi e soprattutto avessero la possibilità loro stessi di punire chi non coopera individualmente senza il bisogno di un'autorità esterna, e questo dimostrano i giochi ripetuti degli anni 50, sono giochi evolutivi basati sul dilemma del prigioniero, la soluzione del dilemma del prigioniero, noi avremo una società senza Stato, senza una coercizione esterna, dove i giochi ce li facciamo tra di noi, se uno fa il furbo lo si punisce direttamente. Ecco, questo è un po' il nocciolo della faccenda, detto in maniera molto, molto semplice. Purtroppo nel caso della corruzione non funziona, cioè ci nasce questa norma perversa e ci viene da chiedersi se non ci sia davvero bisogno di una coercizione esterna. E io credo di tendere un po' a questa soluzione, cioè nel io, senso sono, che per, che io manca... sono per la soluzione che tu a un certo punto, sì, invece metti, esatto, nel saggio, la, sì, soluzione, sì, è altra, cioè in altre parole, se si vive in un contesto pubblico nel quale gli attori politici e istituzionali rendono conveniente pagare le tangenti come non pagare le tasse, e questo è per definizione, per come funziona l'ambiente pubblico italiano, lo rendono conveniente perché se non pago io la tangente c'è un imprenditore che mi frega a lavorare a lui, io non lavoro. Se io faccio parte dell'Italia legale, sono costretto a far parte dell'Italia legale, assisto al fatto che chi non ne fa parte beneficia sia di quello di cui io pago, sia si sottrae al pagamento. Allora, questa è la fotografia dell'Italia. C'è la soluzione che dice Armando, non vi conviene perché bisogna pensare comunque che un potere coercitivo raddrizzi la barca. c'è una soluzione, non voglio dire alternativa, ma concorrente, che è quella di dire: leviamo tutto il possibile di ciò che intermedia lo Stato. Per questo bisogna privatizzare, per questo bisogna cedere asset, per questo bisogna fare l'opposto di quello che stiamo facendo adesso, cioè fare avanzi primari il 5-6% con tutti fatti per via fiscale. Se noi leviamo allo Stato, limitiamo allo Stato, alla politica, ai partiti, alle istituzioni, ai regolatori, la quantità di acqua che intermediano e regolano, inevitabilmente lo spazio nella nostra vita dell'economia, nella quale diventa purtroppo conveniente avere atteggiamenti non cooperativi, cioè pagare le tangenti e sottrarsi le tasse, ecco, solo così in Italia secondo me ci riusciamo. Il potere coercitivo, altrimenti chi lo garantisce, Armando? Quello qua è il problema. Infatti fa parte di questa ricetta che tu hai evocato anche un altro elemento non trascurabile, cioè rendere le cariche pubbliche a scadenze molto precise, cioè evitare che gli stessi politici, gli stessi burocrati siano sempre lì nell'arco di decenni, no? Cioè, perché sennò il loro potere è semplicemente l'autodeterminazione di se stessi. Esattamente. Quello è questo, bisogna sottrarre alla situazione tutti quegli elementi che fanno sì che quella norma spontanea continui ad essere efficace nel corso del tempo e diventa una vera e propria trappola, cioè non se ne esce più, cioè si continua a fare una cosa che è razionale ma non conviene, appunto per ripetere l'affermazione del titolo. È razionale perché è una trappola, e dentro una trappola uno fa la cosa che gli sembra più... Ed è appunto la trappola del prigioniero, quella che ci riguarda come cittadini italiani. Nel secondo saggio di questo bellissimo libro, che è sicuramente la parte che a me entusiasma di più, ma io sono una minoritaria misca bianca anarco-liberista, laddove si spiega appunto al lettore che non ne fosse a conoscenza il filone a cui appartenga David Friedman e gli anarco-libertari, per così dire, americani, che è un filone impropriamente considerato di destra nel nostro paese, perché è un filone di potente incardinazione e difesa di diritti civili, quindi è un filone, diciamo così, di sinistra radicale per quello che mi riguarda. Pacifista, naturalmente è liberista, pacifista, è contrario all'interventismo politico tradizionalmente sostenuto dalla destra repubblicana negli Stati Uniti. Comunque, insomma, uno dei criteri di fondo di pensatori come David Friedman è quello di non essere d'accordo con la classica massima keynesiana che viene sempre ripetuta, ovviamente anche in Italia, dai professori al governo, che ci dicono sempre: non chiedetevi che cosa lo Stato fa per voi, ma cosa voi potreste fare per lo Stato. E David Friedman aggiunge: ma che cosa devo chiedermi, cosa posso fare io per lo Stato? Io devo solo chiedermi cosa lo Stato mi sta facendo, perché il problema è che mi sta rapinando, in parole povere. Perché mi sta rapinando? Il problema non è quello semplicemente di dire: è mio, non te lo do. No, il problema è quello che tutte le consuetamente utilizzate argomentazioni a favore del fatto che lo Stato intermedia meglio, distribuisce meglio, eccetera, eccetera, vengono in realtà, con spirito paradossale ma tagliente a lama di coltello, smontate una per una. E quindi io per questo devo rendere merito a Armando Massaretti, che secondo me non è proprio di questo filone, però spiega in questo secondo capitolo con una acribia e una onestà intellettuale che in Italia non c'è quasi mai su questo filone. Ma io penso, perché questo è un vero esercizio, io amo gli esercizi filosofici estremi, questo è un esercizio filosofico estremo, anche se poi David Friedman stesso ammette che i propri principi ultralibertari devono ammettere delle eccezioni, perché è un pensatore molto sofisticato e quindi è un po' per esempio su base utilitaristica si deve ogni tanto recedere rispetto ai diritti. Infatti lui dice: per me l'utilitarismo non è il Vangelo, esatto. Lo sarebbe come per tanti altri liberisti, esatto. Assolutamente, si tratta no. Di anche nel suo caso di compenetrare due principi che possono confliggere. Ecco, la grandezza dei filosofi del secolo scorso, dei più grandi filosofi liberali, sta in questo: da Isaiah Berlin fino ad Amartya Sen, cui ho dedicato appunto il terzo capitolo, sta in questo, cioè nella capacità. Poi sono molto diversi tra di loro, però tutti hanno questa saggezza di fondo. E però nel caso di David Friedman, peraltro figlio di Milton Friedman, che considera Milton Friedman un pericoloso statalista, perché esatto. Il grande premio Nobel è considerato da noi tutti invece un ultra del liberismo, esatto. Per il figlio è il papà che insomma, troppo ragionevole, ma in realtà è un pensatore molto istruttivo, perché permette di fare quell'esercizio estremo lì. Io penso che per essere liberali bisogna fare fino in fondo quel ragionamento lì. Esatto, oggi, sono esatto, abbastanza d'accordo con te. Un vero liberale deve essere pronto innanzitutto a capire davvero quello che hanno scritto pensatori che magari istintivamente o anche dopo la comprensione non ci convincono, ma no, evitare la mistificazione intellettuale che in Italia è invece abbastanza all'ordine del giorno. Allora, per esempio, leggere e far leggere ai propri figli L'ingranaggio della libertà, che è un testo fondamentale di queste film, sarebbe molto utile, secondo me. Io devo dirvi, Armando Vassarenti pratica questi esercizi di, come devo dire, non inquinamento dei testi e degli autori di cui parla. Per questo, secondo me, il suo manuale, continuo a dirvelo perché per me è stata una scoperta. Io mi sono passato le notti a riprendere i quattro volumi dall'inizio, a rileggermi tutto, a parte che è utile, ma per come è fatto, mentre i vecchi manuali dei miei tempi erano totalmente intrisi di un punto di vista che riduceva tutta la storia della filosofia, diciamo, a una specie di ascesa trionfale verso poi l'inveramento dell'idealismo orientato a sinistra, perché questo era il mio manuale, in parole povere, e tutto, dalla storia di Anassimena e Anassimandro fino poi all'ultimo volume era una specie di trionfale illuminazione verso il sol dell'avvenire. Qua trovate per ognuno dei pensatori e filosofi nei quattro volumi di Sapere di non sapere questo spirito, quello di tentare di non inquinarlo, di spiegarlo per quello che ha detto nel rispetto dei suoi tempi, della sua evoluzione, di ciò che ci ha dato e di ciò che ancora è capace ogni pensatore di porci rispetto ai problemi fondamentali dell'interazione col mondo esterno e del capire se e come esista una verità, se e come i fenomeni siano percettibili a prescindere da noi che siamo soggetti, eccetera, eccetera, eccetera. Perché hai fatto giornalismo? Lista, se sei così bravo, Armando, perché? Ma insomma, sono un giornalista un po' anomala, ma non perché, come tu generosamente dici, giustamente sono bravo. Non ti interessava stare in cattedra, ma anche un po' per le vicende della vita. A me sembra che attraverso un giornale come il Sole 24 Ore si debba veicolare un tipo di cultura molto seria, quindi si deve essere un po' vicini a quello che si fa. È perché molto poi Armando Vassarenti ha portato nel domenicale questa cura preminente, attenzione preminente, per l'epistemologia, i temi della cultura scientifica, della comprensione scientifica, cioè esattamente un altro punto debole della cultura del nostro paese, così gentiliana, così impregnata di idealismo, così impregnata di un sistema che alla nostra scuola, all'università e ai vostri figli ha regalato poi il fatto di restare a spasso molto spesso. Molto spesso sì, e poi tra l'altro si noti come sono intrecciate le cose. Prima dicevamo von Neumann, che è un grandissimo scienziato, grandissimo fisico, e che ha fatto un pezzo importantissimo della teoria economica, che è appunto la teoria dei giochi. Queste cose sono sempre state intrecciate, diciamo, pensate a Princeton negli Stati Uniti, mentre in Italia sono proprio quelle discipline lì, che peraltro si intrecciano così bene tra loro, che sono sempre state massacrate dalla ideologia dominante a cui facevi cenno tu prima, cioè l'idealismo di fondo, che ha massacrato la scienza, che ha massacrato anche le scienze economiche, le scienze giuridiche. E che alla fine ha regalato le stesse, diciamo così, convinzioni religiose forti al dominio del relativismo, come direbbe Giuliano Ferrara, che naturalmente non sarebbe d'accordo su quasi niente di quello che abbiamo detto in questa settimana. Ieri mi ha molto divertito leggere il dialogo tra un elefantino e un topolino, devo dire la verità, che era praticamente il dialogo tra Massarenti e Giuliano Ferrara, nel quale io ti favo Massarenti anche nella conclusione, perché di fronte all'idea che il pensiero laico abbia adesso in Benedetto XVI il suo più trionfale difensore, io dico un momento, aspetta un po', esattamente come il topolino Massarenti ieri diceva all'elefantone Ferrara, che invece diceva no, come, viva il Papa, perché il Papa della certezza del suo soglio in cui ha la dogmatica indiscutibilità di quello che dice è diventato il vero unico difensore del pensiero laico occidentale. Insomma. Sì, e poi lì in quel dialoghetto io contrappongo proprio l'idea della grande tradizione in cui noi saremmo immessi, eccetera, eccetera, a il topolino, che è appunto un individuo. E allora torniamo al saggio perché pagare le tangenti è razionale, ma non vi conviene, perché siamo individui di fronte a situazioni concrete. Purtroppo però dentro delle regole che a volte ci costringono a fare cose che non vorremmo fare. Ecco. Allora, io adesso devo andare in pubblicità e devo anche, ohimè, ringraziare e salutare Armando Massarenti. Avete capito come questo librino, come gli altri di filosofici di Armando Massarenti, in realtà è un appello profondo alla coscienza del paese e a capire che per avere atteggiamenti solidali e cooperativi dal punto di vista dell'utilità collettiva non dobbiamo prescindere dalla nostra individualità, dobbiamo contemporaneamente costruirli, il famoso potere coercitivo, attraverso diversi meccanismi pubblici da quelli attuali, e dall'altra c'è anche la strada di levare l'acqua in cui nuota il bandito, cioè lo Stato nel nostro paese, non per definizione, per come funziona oggi da noi è così. Io non sono, credo che tutti gli stati siano così, senza gli stati non ci sarebbe stata la modernità, questo è ovvio. Grazie a Armando Massarenti, e noi dopo la pubblicità diamo spazio alle lettere del sito a cui, che vi ricordo, è disperatimai@radio24.it. tra poco. Ecco, tornano i Doors, vado a caso ovviamente, comincio da Diego Salvi, disperati mai, ci scrive: grazie per la grande possibilità che mi offrite, vi parlo della mia situazione, ho 33 anni, porto avanti un'azienda di famiglia di storia alimentare, durissimi i 2 anni precedenti, ma comunque si riusciva ancora a portare avanti la gestione dell'azienda. Da settembre invece del 2011 gli ordinativi crollano, la liquidità nulla, le banche mi hanno chiuso ogni possibilità di risollevarmi, ho pensato a spostare tutto all'estero, ho pensato a vendere, ma chi? Ho pensato a togliermi la vita, sì, ci ho pensato anch'io, ed è per questo che ringrazio voi per aver aperto questo indirizzo, e continuo a pensarci perché mi ritrovo in un vicolo cieco e non so più cosa fare, la disperazione dilaga, però ho una famiglia, la mia famiglia, Andrea di 6 anni, Alice di 4, sono loro che tengono viva la mia voglia di andare avanti, non so in questo momento come, sono ritornato a vendere in strada, purtroppo dai clienti ci vado io, ho battuto il marciapiede, ho tagliato i costi, li ho azzerati, ma più di così non si può fare, più di così cosa ci vogliono portar via? Il diritto di vivere? No. Continuo ad andare avanti, grazie a voi, e dite a quelli come me che hanno perso l'azienda che bisogna andare avanti comunque, e grazie a te Diego Salvi. Poi Oriana Margaritelli ci scrive: a 40 anni con suo fratello è la terza generazione della sua azienda e l'oggetto d'impresa è produrre e vendere prosciutti a Parma, fantastici prosciutti a Parma, quindi un distretto alimentare di grande eccellenza che tutti direbbero oggi comunque continua a crescere a doppia cifra, non è in crisi, e invece no, perché il caso di Oriana Margaritelli e del fratello ha inizio nel 71 addirittura, quando si inizia la costruzione del primo pezzo di prosciuttificio, quando mio nonno e mio padre, ci scrive Oriana, che era poco più di un ragazzo, decisero di iniziare un nuovo mestiere. Tutto va bene, mio padre, che per queste cose è un genio, fa funzionare gli impianti producendo prosciutti di altissima qualità, l'azienda cresce in 5 ampliamenti addirittura successivi, arriva a produrre circa 100.000 prosciutti l'anno. Nel 2006 restiamo coinvolti in una truffa organizzata che provoca una reazione a catena, prima le banche, che nonostante mi mancassero diversi milioni di euro per colpa della truffa mi hanno fatto rientrare o hanno drasticamente ridotto i fidi, e qui c'è l'esempio che Oriana ci fa, Cassa di Risparmio che blocca i fondi personali del padre, sotto minaccia di azzerare gli affidamenti glieli fa mettere a pegno legati al conto della ditta, alla fine incassa tutti i fondi personali e ci mette comunque al rientro. In seconda battuta, in questa truffa che Oriana denuncia, intervengono le assicurazioni, soprattutto una assicurazione che approfitta brutalmente della situazione di necessità in cui si trovano per via delle esposizioni bancarie, e la truffa viene attuata facendo gli ordini per i clienti e dirottando la merce che non arriva mai a destinazione, tanto che poi i clienti si rivalgono e alla fine i due fratelli, non avendo 500.000 euro, l'equivalente di più centinaia di migliaia di euro per una controindagine per smentire le risultanze delle indagini dell'assicurazione, che naturalmente loro citano, si trova a dover, per effetto delle banche e delle assicurazioni, essere messi in ginocchio. Ecco, in ginocchio significa dopo 6 anni di agonia e dopo aver pagato oltre 3 milioni di euro di interessi, il 3 marzo scorso il prosciuttificio di Oriana Margaritelli e del fratello presenta concordato preventivo in tribunale, distruggendo il lavoro di 3 generazioni. Vi risparmio naturalmente ciò che Oriana e il fratello pensano di banche e assicurazioni, dicono solo che avrebbero fatto qualunque cosa per ottenere i 15 dipendenti che oggi hanno perso il lavoro. La conclusione di Oriana è: perdere la vita mai, ma assistere a come attori economici, banche e assicurazioni preferiscano portare alla chiusura senza alcun interesse le imprese è una delle ragioni, insieme allo Stato, per la quale sopravvivere a una crisi di queste proporzioni diventa difficilissimo per moltissimi come noi. Quindi Oriana, oltre a criticare, spera che la loro vicenda possa essere utile ai più. This is the end. E tornano i Doors. Nel frattempo io ringrazio il direttore della Caritas diocesana dell'Aquila, che è un laico, padre di famiglia, si chiama Paolo Montesanti. Ci ha scritto una bellissima lettera all'indirizzo disperatimai@radio24.it spiegandoci in cosa consista il lavoro che, come potete immaginare, dopo il terremoto dell'Aquila è diventato fortissimo, di grandissima importanza per sorreggere il morale di popolazioni piegate in due, innanzitutto anche nelle loro attività economiche. Ricordate che in tutta l'Aquila, vecchio centro storico, le botteghe artigiane e commerciali sono spazzati via, nessuno ha potuto riaprire. E grazie quindi a Paolo Montesanti, che ci spiega come il loro modello, hanno messo in piedi un'equipe bancaria chiamata di consulenza economica e difesa bancaria, si stia dando da fare proprio per evitare che vengano travolte e vadano a chiusura, a fallimento, gli esercizi commerciali e artigiani della zona colpita dal sisma. E spiega come l'equipe familiare che si affianca a quella bancaria ha un modello, per così dire, di accompagnamento per evitare la disperazione e i gesti estremi come quelli di imprenditori che si uccidono. E Paolo Montesanti dice: attenzione, che però nessun ragionamento economico si regge da solo se prima non ci procede alla sostituzione del pensiero irrazionale. Il pensiero irrazionale che va sostituito è quello per il quale fallimento economico uguale fallimento come persona. Grazie a Paolo Montesanti. Naturalmente il progetto della Caritas dell'Aquila è vero, secondo me, che può darci, spunti. Grazie poi all'ascoltatore che ha registrato il sito di disperatimai@radio24.it. Noi non avevamo registrato il sito, ma solo aperto un indirizzo mail, e grazie anche a lui, quindi, perché ci dà concretamente una mano. Poi vediamo un pochino la lettera di Riccardo. Riccardo fa parte della diaspora italiana, quelle persone che negli ultimi 20 anni sono andate a vivere e svolgere la propria professione all'estero. Non è un talento in fuga, anzi è grato al suo paese, gli ha permesso di seguire scuole di primo livello, la scuola pubblica, ed è in Lussemburgo. È in Lussemburgo perché gli è venuta un'idea, facendo il paragone tra la diaspora ebraica, la più forte organizzata al mondo, e la nostra diaspora degli italiani all'estero. Riccardo dice: chi è all'estero e se l'è cavata meglio dovrebbe, secondo me, essere pronto a aiutare chi resta dietro, chi non è andato via, chi non trova oggi l'attenzione giusta da parte del governo, della politica e delle banche, con un fondo Ultima Speranza per salvare le imprese. La mia opinione, dice Riccardo, è che un'iniziativa in cui sensibilizzare gli italiani di successo all'estero per contribuire anche solo simbolicamente con un fondo di questo tipo, un fondo cooperativo più privato che pubblico, per dare una mano alle imprese, agli imprenditori disperati e ai loro dipendenti, oggi avrebbe un buon riscontro. Grazie a Riccardo per questa idea. E Stefano Console è invece uno che ci scrive dicendo: ho perso già da tempo la fiducia nel nostro paese, lavoro da 5 anni come frontaliero in Canton Ticino, verifico sulla mia pelle ogni giorno la differenza tra Svizzera e Italia. All'inizio di quest'anno ho deciso di mettermi in proprio e la valutazione che ho fatto è Italia o Svizzera. La decisione non è stata difficile, ci scrive Stefano Console, perché il sistema Italia mi ha aiutato a decidere per aprire un'attività individuale in Svizzera, naturalmente, non in Italia. Ho compilato un questionario, sono andato a consegnarlo a un funzionario senza neanche fare la coda. Tempo 5 minuti, costo 180 franchi svizzeri. Non vorrei apparire negativo, scrive Stefano, ma in tanti anni di attività in Italia ho sempre trovato una classe dirigente, politica, ma anche industriale, perlomeno inadatta al ruolo. Naturalmente con tutte le eccezioni, sempre a voler generalizzare, ma quando da dirigente ho cercato di aiutare il cambiamento sono stato emarginato. Quindi ho esercitato la democrazia con i piedi, come ha detto Giannino, e sono andato poco più là. In 5 anni sono riuscito a fare più che nei precedenti 15 in Italia. Naturalmente io non voglio dire a chi è disperato nel nostro paese, continua e conclude Stefano, che l'unica è andarsene, ma dico che un paese che non merita dirigenti, manager, lavoratori autonomi e anche i dipendenti le cui aziende, quando le aziende da loro dirette o guidate o in proprietà sono costrette a chiudere, prima di diventare disperate esaminino la possibilità di andare fuori e altrove. Le lettere sono tantissime, io continuerò ogni giorno più di oggi a darne conto. Mi devo scusare a questo punto con Alessio da Pistoia, Amelio da Modena, Giulio da Roma, che erano prenotati per intervenire e ho tenuto a telefono fino a questo momento, ma oggi chiudo a 54, ancora prima c'è molta pubblicità, continuate perché noi le leggiamo tutte e a tutte daremo una risposta, non solo leggendole giorno per giorno. È in arrivo un'iniziativa più importante di Radio 24, di fronte a tutte queste migliaia di lettere abbiamo preso qualche settimana in più, 2 settimane in più, ma poi ve ne parleremo. L'indirizzo è disperatimai@radio24.it. L'appuntamento con me a domani mattina. Grazie. 9 in punto. la versione di Oscar. Mm.